giochi di luce di cento fontane sgorgano dagli occhi tuoi. Scie di bianco, riflessi di mare spersi negli intimi tuoi. Giochi di acqua, riflessi di sole, scrigni di sogno su noi. Mi immergerò in queste verdi cascate, ebro dei simboli tuoi. Correnti d'onde più vorticose, venti più freddi tra le distese, mi immergerò, fido in te, scenderò. Ancora, ancora, ancora, ancora, sì, ancora insieme noi. Su, finché vuoi. Giochi di luce di cento fontane sgorgano dagli occhi tuoi. Scie di bianco, riflessi di mare spersi negli intimi tuoi. Giochi d'acqua misteriosi, giochi d'acqua luminosi, giochi d'acqua misteriosi, giochi d'acqua.